Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 15. Con la nostra comprensione terrena, non possiamo giudicare il Creatore. Sai perché no? La nostra comprensione terrena vede tutto come contraddizione. Ricorda le parole che il Creatore disse ad Adamo: puoi mangiare da tutti gli alberi, mangia tutti i frutti tranne uno. È il serpente, che è la nostra comprensione terrena, vede questo come controverso. Il serpente non vede la differenza tra un albero e un altro albero. Quando cerchi di arrivare alla comprensione con la tua mente terrena, quando vuoi capire lo spirituale con la tua mente terrena, è certo per un 100% si avranno problemi. Non arriverai mai alla comprensione. Questo è possibile solo quando vai oltre il tuo intelletto, nel senso a non decidere con la tua comprensione terrena, la tua mente egoista. Quando andrai oltre la tua comprensione terrena, sarai portato da un passaggio all'altro. Il Creatore ti porta sulle sue ali, cioè, colui che si sforza per lo spirituale avrà le sensazione di fondersi con la forza superiore. E questo ti dà la sensazione che tu sei trasportato sulle ali, che tu sei portato sulle ali della sua provvidenza. La terra è Malchut, la severità, e per te non c'è più la miseria della terra. Testo. E questo li sta facendo male, perché a lui non è nell'interezza con il Creatore, così può avere la consapevolezza di non avere santità in lui. E anche quando riceve un incoraggiamento dall'alto, che lo nutre in un certo momento, sente che sta cadendo immediatamente. Guarda il disegno 14,1. Io osservo come io. C'è un'esperienza del mio io che me come persona. Sopra di me c'è il Creatore, il passo più alto dentro di me. Tutto quello che stai imparando è prima di tutto considerando il tuo interiore individuale. Anche quando parliamo di esterno, parliamo della tua reazione considerando ciò che sta accadendo al di fuori di te. finché critichi l'esterno, agisci come un bambino. Non è oggetto di indagine perché non puoi mai sapere cosa sta realmente accadendo al di fuori di te. Sappi che tutto ciò che esiste consiste di due elementi. Tutto ha un interno e un esterno. L'esterno è la parte che può vedere, ma sai che questa è solo una reazione da qualcosa al di fuori di te. Questo lo chiamiamo soggettività. Siamo noi che stiamo cambiando. È la nostra reazione proveniente dal nostro sistema di consapevolezza, e questo sarà sempre soggettivo. Quindi non è oggettivo del nostro studio. La scienza si tiene solo occupata con ciò che è oggettivo. Almeno loro pensano, ma il contrario. Uno scienziato osserva in un altro modo, misura determinati punti di forza, certe vibrazioni, ma tutto indirettamente. Il creatore che sperimenti è solo il più alto. Il prossimo passo all'interno del tuo interiore. Il creatore è la luce. E non siamo interessati a come la luce si forma dall'esterno. Non c'è alcun interesse in me per sapere come il creatore viene dall'esterno. Ho solo interesse su come venire in conformità con lui, con la forza, con il mio passaggio più alto. L'immagine di Dio, del creatore, non può essere misurato, e sappi che non ha senso parlarne. Noi possiamo studiare solamente quel passo che noi possiamo sperimentare dalla via dei nostri cinque sensi, i recettacoli che sono i nostri ricevitori. Quando ascolti o leggi la parola creatore, sai che sta solo a significare il risultato della luce, considerando me stesso, il mio interiore, dovevo al prossimo più alto step. Dovuto al prossimo più alto step. Perché non puoi esserci una giustificazione che considera lui? Ognuno di noi sta costruendo l'andare oltre la sensazione. La sensazione: dove sono io? Stiamo costruendo qualcosa come un edificio superiore. Guarda il disegno. C'è qualcosa che è sopra di me, e questo è tra il creatore e me. Io sto bene, io sono buono, e c'è qualcosa di buono dentro di me. Questa è l'affermazione usata nel circuito alternativo. Ma è possibile dire che ho qualcosa di buono in me? Una persona sente se stessa meglio di un'altra persona. E questo è il parlare dell'ego. Ognuno è così amabile. Tu stai soffrendo insieme alla comunità. Assolutamente. Ma stiamo lavorando su noi stessi? Ovviamente puoi avere simpatia per un'altra persona, ma devi vederlo come un essere integro. Allora hai man, e quando tu hai man, mad scenderà. Ma prima devi lavorare su te stesso e poi puoi simpatizzare con la comunità. E quando lavorerai in questo modo, sarai di maggiore aiuto. Poi solo l'aumento delle risorse. Naturalmente anche questo è necessario, deve essere fatto, ma non significa niente, fino a che non hai tempo di lavorare con e sul tuo interiore. Come bene il fisico, nonché lo spirituale devono essere coinvolti. Solo il fisico non funziona e si deve prendere coscienza di questo. Solo tu puoi fare il man, e poiché dal mat può venire giù. Questo è il vero aiuto. Prendi coscienza di questo. Non aiutare un'altra persona per il motivo per cui vuoi sentirti bene. Portati in conformità con le leggi dell'universo. Questo è importante e sarà visto dall'alto. Quando dai tu lo devi, quando dai tu lo devi dare dall'interno. Quando c'è solo l'esterno che dà, tu non farai nulla. Non pensare di star bene. Tu non hai fatto niente. Diventa consapevole di questo. Per esempio, dai soldi a qualcuno e ti senti bene dall'interno. Sappi che questo dare ha addolcito i tuoi pensieri, ma non hai fatto niente. È completamente senza valore. È solo nella tua immaginazione. Pensi di aver fatto una buona cosa. Ma devi sapere che sulla terra non c'è nessuno che abbia qualcosa di buono in lui. E una tale persona non arriverà mai. Devi sapere cosa è buono. Il bene è la qualità dell'assoluto altruismo che esiste sempre. Ma perché abbiamo questa sensazione? O perché sembra che qualcuno stia facendo una buona cosa? Lasciami provare a darti una spiegazione. Per esempio, mi porto in conformità con le qualità dell'universo. E questo è buono. Questo è l'assoluto altruismo. E ora sono venuto in conformità con questa qualità. E sono capace di ricevere questo bene. Questa è la mia bontà. Quando io mi sento bene, io ricevo. È mio. Puoi confrontarlo con una persona che lavora in una banca o in un negozio e durante il giorno riceve un sacco di soldi. Questo è il suo denaro. Tutto il bene che riceviamo ci viene dato perché stiamo facendo il lavoro. Ci stiamo portando in conformità con le leggi dell'universo, il vero altruismo. Ogni passo è più altruista del precedente. Ogni prossimo passo è più vicino alla luce, all'eternità. Quindi sappi quando vuoi dare. In primo luogo fai il tuo lavoro all'interno e fai questo sempre. Cos'è questo lavoro? Diventa consapevole che nulla ti appartiene. Quando stai ancora pensando che tutto sta accadendo a causa tua, stai giocando con te stesso. Non otterrai nulla. Perché dai? Solo quando tu dai nel modo giusto. Significa che viene dall'interno e non dall'esterno. Viene dal tuo altruismo. Questo è il vero dare. Il Creatore non mi aiuta. Faccio un sacco di lavoro, ma ancora lui non mi sta aiutando. E questo è dovuto al desiderio occultato, o esso non è il mio vero desiderio. Desiderio significa la giusta intensità. La giusta quantità deve essere puro. Solo quando il desiderio viene dal profondo può diventare il vero desiderio. Ma prima tu devi diventare libero dal tuo amor proprio prima che tu possa venire al vero desiderio. Ho un desiderio, mancanza. Voglio collegarmi con il prossimo passo. E non sta funzionando. Perché no? Sono troppo pigro. Ho qualsiasi pensiero viene in mente. La maggior parte delle volte le persone lo fanno in questo modo. tra loro stessi e la luce, loro stanno costruendo un idolo. Un'altra volta. Tra loro stessi e la luce, loro stanno costruendo un idolo, qualche immagine, qualche dio o qualunque nome tu voglia dare. Il problema è che loro non si annunciano da loro stessi direttamente alla luce, alla sola forza creatrice. Quando agisci in questo modo, non puoi vedere bene. Certamente puoi sentirti buono, ma devi sapere che i poteri che vengono da te non provengono dalla vera sorgente, significa dalla sua stessa luce. Nel proiettare me stesso direttamente a lui, significa dare la preghiera, il man, le acque femminili a lui. Io miro a qualcosa di diverso e non al gradino più alto, al bene che è dentro me. Quello che sto facendo è dare qualcosa a un certo valore e questo mi dà forza, l'aspettativa, la ricompensa mi dà forza. Ognuno di noi può avere un desiderio, ma non è il tuo obiettivo primario. Devi lottare per l'unico vero passo più alto dentro di te. Non chiedere obiettivi secondari. Ovviamente non è proibito. Ma devi chiedere il passaggio più alto. Solo da questo nuovo passaggio poi verrà la luce. Stiamo imparando la Kabbalah, la struttura dell'universo e la struttura di me. Inizio a giustificare la forza superiore dentro di me, sebbene sia ancora sconosciuta, o forse riesco a sentirla un po'. E attraverso questa giustificazione mi libero dall'idolo che avevo dentro di me. Lo butto via perché questo idolo mi sta ostacolando. Ora io punto alla forza creativa, la manifestazione del passaggio più alto. Ora posso vedere che è veramente buono, perché ora so che egli è buono e fa bene. Solo la luce è buona. Sappi che solo le qualità dell'assoluto altruismo sono buone. Solo questo è buono e niente o nessun altro è buono. E finché ho la convinzione che qualcuno fa qualcosa di buono, comincio a fare un idolo. Sto giocando un ruolo in una qualche sorta di commedia. Mai lasciare che altre cose siano gli oggetti del tuo comportamento. cosiddetto vero amore. Sappi che la forza magnetica non è amore. Andiamo dal fare sesso all'amore. L'amore appartiene solo alla forza creativa, perché questa è la fonte della nostra vita. Quando tu stai facendo diversamente, arriverai ad una profonda delusione. Tutto ciò che è al di fuori di lui e ogni cosa che dai la tua attenzione, il tuo amore, non viene dalla vera forza creatrice. Il sesso non ha a che fare con l'amore. Certamente ti puoi sposare, avere figli e così via. Ma tutte le persone che si battono per l'amore terreno arriveranno alla delusione più profonda. Quando ami il Creatore puoi sposare il più grande fuorilegge e essere felice. Perché? Sarai felice perché tu sei tutt'uno con l'unica creazione di forza. E non dipende dal tuo partner terreno. Sappi che qualsiasi cosa tu stia mettendo tra te e il Creatore ti sta ostacolando. In questo momento non lo vedi questo, ma devi sapere che stai chiamando qualcuno che hai messo tra te e il Creatore. Quando arriva la sofferenza e tu apri gli occhi e tu chiedi aiuto, tu vuoi dirigerti al Creatore. Allora lui ti dice: hai qualcun altro? È il tuo idolo. Vai da lui. Non hai una relazione con me. Vai dall'altra persona. Devi sapere questo. Colui che è in contatto con te ti ricompenserà. Quando questo è un essere terreno, sappi che riceverai poco, anche se potresti pensare diversamente, e rimani debole. Qualunque cosa accada, sappi a chi ti rivolgi. Quando c'è un problema, a chi ti dirigi? Chi ti aiuterà? Quindi inizi a piangere mentre c'era il problema. Mentre c'era il problema, tu non ti stai orientando verso la vera fonte. E questo è un tuo errore. E tutti noi stiamo facendo questo errore. Ma quando butti gli idoli che hai, il tuo cuore non desidera più l'oro. Vedrai il Creatore. E il Creatore significa il tuo proprio passaggio più alto. Per esempio, tu stai sul quinto e vuoi andare sul sesto. Questo è il Creatore. Quello che è ignoto a te è il Creatore. Ogni superiore livello, considerando il più basso, ha più qualità di altruismo. Tutto ciò che è conforme alle leggi dell'universo ha più luce, ha più vita in esso. Più una persona può dare nel modo vero, come abbiamo detto sopra, tanto più egli crescerà. Quando una persona è ancora incapace di dare, è come un bambino. Restiamo come bambini. Quando non possiamo dare, quando siamo ancora nell'aspetto della gelosia, ma quando sei contento che un altro abbia più di quello che hai, sei diventato una persona adulta. Essere una persona adulta significa concedere anche al tuo nemico. Quando tolgo tutte le immagini, l'intermediario tra il Creatore e me, allora posso vedere in verità il Creatore. Quando parliamo di Mosè, Mosè, stiamo parlando di forza e mai di una persona. Mai c'è stata l'intenzione che dovresti idolatrare la persona. Quando tu veneri Mosè o Yeshua, Jesus, Gesù o qualcun altro, tu fai lo stesso con gli altri idoli o intermediari. Riguarda tutto nel costruire forza all'interno di te e venire in conformità con quelle forze. L'intenzione è di portarti in conformità con la forza del profeta. Il nome è la denominazione della comprensione, della tua comprensione, ma non ha niente a che fare con la persona stessa. Mosè è un livello di comprensione superiore, è un passo più alto. Mosè rappresenta qualcuno che si è avvicinato al Creatore. Perciò ricorda quando parliamo di Mosè. Quando parliamo di Mosè, non stiamo parlando di un essere umano, ma circa il livello raggiunto da qualcuno. Lo stesso è quando parliamo di Yeshua. Tu devi sapere questo dal cuore. Non importa a quale intermediario chiedi aiuto. Non chiedi direttamente al Creatore. Tieni questo in mente. dirigiti sempre a Lui. Poi il vero desiderio sarà rivelato e riempito. Supponiamo d'ora in poi di cancellare tutti gli intermediari tra te e il Creatore. Cosa segue? Per prima cosa pensavi di essere buono, ma ora guardi sopra e non c'è nessuno. Non c'è nessuno tra te e il Creatore. Ora tu vedi il passaggio successivo più alto. La tua intenzione non è puntare su qualcosa che è al di fuori di te. Tutto ciò che è al di fuori di te non può essere compreso. Certamente io vedo, per esempio, una pianta. Conosco il nome della pianta. Ma conosco la pianta? Posso dire cos'è la pianta in realtà? Conosco le sue qualità. So se la pianta odora. O se è avvelenata o no. Ma questo è tutto ciò che posso dire sulla pianta. È lo stesso con la Kabbalah. Solo quello che possiamo comprendere possiamo dare un nome. Quello che io sperimento, capisco e comprendo, posso dire io lo so. Ma quando dico con la mia comprensione terrena che è questo o quello, questo non è reale. Quando sto facendo qualcosa con la mia comprensione terrena, so che questo non è il vero apprendimento. Ci sono pochissime persone che possono fare diversamente. Una grande persona deve essere riconosciuta attraverso il suo Fingerspitzengefühl, che i tedeschi chiamano un sesto senso. Quando non hai più un intermediario, non conti più su un idolo o qualcuno, qualcos'altro. Sei tu e il Creatore, allora tu vedi il tuo ego. Vedi la persona che sei veramente e poi sei consapevole del tuo ego. E sono a un livello molto grande e questo è il mio desiderio, che tutti voi che state leggendo verrete a questa consapevolezza. Quando pensi ancora di avere qualcosa di buono in te stesso, o pensi che un'altra persona sia brava, buona, amica, eccetera, ti stai comportando ancora da bambino. Devi venire al momento in cui non hai nulla davanti a te. Ora puoi venire all'esperienza del prossimo passo dentro te stesso. E quando tu arrivi a questo momento, sperimenterai qualcosa di fantastico, qualcosa di meraviglioso, e ti piacerà andare avanti. Ma non hai la forza per raggiungere il prossimo passo, nonostante tu ti stai sforzando. Questo è il momento che devi sapere, lo sforzo. È il lavoro che fai, questo è il sentiero che ti porta al tuo passo più elevato. Lo sforzo è il sentiero. E poi, indubbiamente, quando non c'è più un intermediario, puoi anche guardare in basso, e ciò che vedi è il tuo ego. Noti che l'ego è molto potente, ha tutto il potere, è il faraone dentro di me. L'ego. Il faraone è così forte che con le tue proprie forze non puoi avere la vittoria. E questo è il momento in cui il passaggio più elevato ti sta aspettando. Quando vedi il tuo ego è molto potente in ogni passo. E quell'ego ti sta osservando per andare avanti. Come il faraone che non ha lasciato andare il popolo di Israele fuori dall'Egitto, questo è quello che sto cercando di dirti. Solo allora puoi vedere il tuo ego. E poi verranno le 10 piaghe. Perché? È l'ego che deve ricevere le 10 piaghe. E dire le 10 sfirot. Le 10 sfirot sono le 10 piaghe. Come? Quando vai oltre il tuo intelletto terreno, ogni volta che vai oltre la tua comprensione, il tuo ego riceve un colpo enorme. Ma non spezzare mai il tuo ego. Un nuovo colpo significa che l'ego diventa più piccolo, più silenzioso. Il colpo che l'ego riceve è necessario per te. È necessario per te a divenire poi più intelligente dell'ego. In un certo senso, quando il tuo ego riceve un colpo, questo significa che stai imbrogliando il tuo ego. Dai qualcosa di piccolo al tuo ego, così l'ego è ora soddisfatto. Ma tu ti porti al bene. La parte più grande è per te. E quando agisci in questo modo, l'ego riceve un colpo. Questo è quello che noi diciamo considerare il colpo. Pertanto, Giacobbe ha dovuto imbrogliare su Esau. Esau era il potere per ricevere, e Giacobbe è la forza altruistica. è questa forza sembra più debole considerando il potere egoistico. E con il più debole intendo la forza di Giacobbe. Non è basata sull'intelletto terrestre, ma va sempre oltre la comprensione. Quando uno va oltre la sua comprensione, lui può dire cosa sta succedendo. Non mangi dall'albero della conoscenza. Guarda l'albero, che bello, ma non mangiarlo. Lui può dire no, è proibito. Non ho assolutamente capito perché è proibito. Non riesco a capirlo con la mia comprensione terrena. Ma vado oltre la comprensione. Lo faccio o non lo faccio, ma qualunque sia il caso. Vado oltre la mia comprensione per realizzare il desiderio dei miei passaggi più elevati. Il passaggio più elevato è mio, e quando porto lo step più alto dentro di me in conformità con la luce appartenente al passaggio più alto, poi vado oltre la mia comprensione, e questa è la prima condizione per crescere in modo spirituale. Perché? Un passaggio più alto significa una misura più alta del dare. Puoi venire nella situazione. Vedrai cose che gli altri non vedono. Da dentro vieni al riconoscimento. E questo è ciò che conta. Due persone possono sedersi l'una accanto all'altra. Uno vede qualcosa essenziale. E l'altra può, e l'altra persona no. Entrambe le esperienze si vedono in modo diverso. Entrambi vivono la loro realtà. Ogni persona vive in un altro mondo. Perciò giustifica sempre il Creatore. E questo è possibile solo quando non c'è nessuno tra te e il Creatore. Ricorda ancora, non c'è nessun altro accanto a te. E quando sei giunto a una comprensione più profonda di questa frase, sei giunto a una parte più profonda di te stesso, il tuo interiore, la parte che non hai ancora sperimentato. Ogni giorno incontrerai cose nuove. Per il Creatore è sempre buono, ma secondo te, nella tua consapevolezza cambierà tutto il tempo. Sai che non avrai mai un momento di noia con il Creatore. Pensi di sapere già qualcosa, ma con il Creatore vedrai ancora e ancora nuove osservazioni. Ogni giorno sperimenterai nuovi punti di forza, nuove comprensioni. Domanda di uno studente. Come faccio a sapere se ho a che fare con il mio ego o con il Creatore? E la mia risposta è: c'è un modo semplice per ricordare questo. Quando fai qualcosa e al tuo corpo piace, o ti dice, fallo, fa bene a te. Quindi questo significa che stai sbagliando. Significa che agisci secondo il desiderio dell'ego. È semplice, è facile, eh? No. Quando fai qualcosa e il tuo corpo lo apprezza, è soddisfatto, stai soddisfacendo il tuo ego. Ma quando vuoi fare qualcosa, un certo movimento interiore, e insieme con l'interno anche i movimenti esterni, il tuo corpo fisico, il tuo ego, non è felice e non gli piace. Ti dice a te no. Sta dicendo a te, non puoi farlo questo. Quando c'è il fastidio da dentro, diventi cattivo. Allora devi sapere, questa è la cosa che devi fare. Perciò, quando il tuo corpo dice è buono per te, il più delle volte l'ego ti parla. Quando il tuo corpo dice non fare questo, non è buono, sappi che il Creatore ti sta parlando. Quando il tuo corpo ti sta dicendo di non fare questo o quello, devi stare allerta. Questo corpo non vuole farlo. Allora tu non addolcisci il tuo corpo. E ora non può ricevere. Più tardi sentirai sempre di più e diventerai più consapevole. Sei tu che ti stai sviluppando. Puoi confrontarlo con la scala di Richter, la scala di 10 Sfirot. Sulla nostra terra vediamo 10 scossoni. Devi sviluppare in te stesso la sensazione. La sensazione di ciò che significa un tremito per te. Quando senti un tremore, sappi che il tuo ego ti sta dicendo di fare questo o quello, o non fare questo o non fare quello. Guarda sempre dentro te stesso e prova a vedere chi sta parlando. Quando il tuo corpo parla a favore di se stesso, vuole essere addolcito, quindi devi sapere chi è colui che viene soddisfatto in quello che sto per fare. Imparando la Kabbalah arrivi a sapere che quando il tuo corpo è soddisfatto, stai lavorando per l'ego. quando ti senti scoraggiato, ha bisogno di molto sforzo. Non c'è comprensione. Non capisci una parola di ciò che stai leggendo. Allora è buono. Significa che stai salendo la scala per un passaggio successivo. Quando c'è comprensione, è facile, facile comprendere. Stai addolcendo il tuo corpo, il tuo ego. Osserva questo. È facile. È allo stesso tempo molto difficile. Devi sapere quando vivi una buona vita, riceverai segnali dall'interno. E questo è il momento di essere molto attento. Tu sei colui che sta costruendo la sua scala di Richter. E sei tu che devi dire che vado sempre più lontano. E domani salgo su un altro gradino più alto. Non aspettare, non rimandare a un altro giorno, perché se lo fai cadrai. Non aspettare fino al momento in cui sei caduto e poi piangi. Il tuo pianto deve essere prima della caduta. E poi questo con l'apprendimento del tuo interiore, riconoscendo il tuo interiore, come agire e reagire con il tuo interiore. Come si costruisce l'insegnamento della Kabbalah? La prima parte è la parte dell'edificio interiore. E nella seconda impareremo come risvegliare dall'interno le sensazioni di avvicinarsi al gradino più alto. Impareremo la struttura dell'universo come il Creatore l'ha fatto. Parlo ancora dell'inizio e forse pensi che non ci sia progresso. Ma devi avere la sensazione. Quando ti parlerò del meccanismo della luce, sarà di grande aiuto. Per dopo diventerà più facile per te. Quindi devo ripetere, e lo faccio il più possibile. Rimango più a lungo nella zona sottile e più tardi scenderò lentamente nel mondo in cui siamo nati. Sentiremo la terra, sentiremo il piacere e vorremmo che fosse qui. Ma questo è per dopo, sii paziente. Prima c'è solo la luce e sappiamo già che il primo atto del Creatore è il suo ritiro da un certo luogo. Questo posto rimane vuoto, senza luce. Questo luogo creato dal Creatore per dare solo luce ora sotto forma di luce diretta o riasciata. Prima l'atto di ritirarsi e poi una nuova forma di luce, la luce diretta o yashar, e la luce rotonda o ormakif. Prima abbiamo la luce rotonda perché la luce rotonda arriva prima della luce diretta. Ma cosa è rotondo e cosa è diretta? La luce rotonda è la luce che riceve ogni creatura vivente. Tutto il piacere, tutti i buoni sentimenti sono ovunque e per tutti. La luce rotonda crea, dà piacere ad ogni lato. Ma il creatore aveva fatto un atto speciale per l'essere umano. Solo l'umano può ricevere accanto alla luce rotonda la luce diretta. Ma per ricevere la luce diretta bisogna fare qualcosa in più. Faccio alcune restrizioni per me, temporaneamente, finché non avrò la forza di ricevere una luce più alta, una luce più intensa, che ha un'intensità superiore e viene dall'alto, ma non è intorno a me, ma è dall'alto, la luce diretta o yashar. Te lo spiegherò di nuovo, ma ora più specifico. Prima c'era la luce senza restrizioni, l'Ein Sof. Ogni cosa che esisteva era Ein Sof. Poi il creatore si ritirò da se stesso. E un nuovo spazio vuoto era lì. Questa stanza era per la creazione. In seguito la luce tornò indietro, ma ora come un raggio molto sottile. Come si forma questo raggio? Prima di tutto deve esserci un processo esterno della creazione che ha formato questo raggio. Quando diciamo che tutto ciò che è esterno è Ein Sof, non ha confini, e poi improvvisamente la luce ritorna nelle forme di limitazione, la luce diretta si è limitata da sé. Questa luce doveva essere formata in anticipo. Prima che la luce entrasse nel posto vuoto, il posto vuoto per quella che sarebbe la creazione, la luce si era limitata in quattro fasi specifiche. Quattro fasi vuol dire: prima c'era solo la sua essenza, ignoto, qualcosa che non possiamo capire. Quindi dalla sua essenza la luce proveniva dal creatore, la luce Ein Sof. La luce Ein Sof è una luce senza fine, ma ha dovuto adattarsi a ciò che il suo piano era per creare la creazione. Certamente in sé non c'è limitazione, ma per il favore della creazione la luce voleva che lui fosse essere conosciuto. Se nessuno ci dovrebbe essere, chi dovrebbe sapere che lui è buono? Era ed è il suo desiderio che saremo conformi alle sue qualità. Così possiamo venire all'esperienza di tutto il bene che lui ha. Questo era ed è il suo obiettivo, e non il nostro obiettivo personale. Il suo obiettivo è che vivremo nell'eternità. Certamente dobbiamo mangiare e bere, eccetera, ma è il suo desiderio che ci manteniamo impegnati con l'atto della creazione, considerando il Creatore. Questo è molto importante. Dobbiamo venire in conformità con Lui, considerando l'atto della creazione.